In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Ce l'abbiamo fatta anche per oggi. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Anziché chiamarsi Slalom, questa trasmissione si dovrebbe chiamare Bentornato a casa. Sono contentissimo, riparte per l'ennesima volta il nostro appuntamento che sarà presente su questa radio ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 circa fino alle ore 13. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it, dall'interno del quale potete fare le vostre dediche e le vostre richieste. C'è poi a disposizione il 335 56 37 251 oppure anche lo 0921 92 32 92. Partiamo subito con la musica. Questa è la canzone che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, la più pompata nelle radio private, ma del resto lei lo merita. Emma, lo sentiamo con Non è l'inferno. Ho dato la vita e il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. Grande cattedrale, ma che non vale un

appena terminati a Los Angeles le premiazioni per quanto riguarda l'Oscar 2012, che hanno decretato il successo di Hugo e The Artist, come da previsione moltissime le star che hanno che sono accorse alla kermesse, alcune nella speranza di potersi portare l'ambita statuetta d'oro. Continuiamo ancora con la musica targata Sanremo e questa è Nina Zilli, Per sempre. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità, ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo a niente, perché se perdo in amore perdo te, che accendi il mondo per un istante e poi va via la luce. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato. L'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire, invece di morire ho imparato a respirare per sempre. Yeah. Le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta non dirò niente, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna la fame. Tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Del mio cuore è dedicato a te, ogni alito della mia anima è dedicato a te, ogni istante della mia vita è dedicato a te. Sempre, per sempre ti amerò,

se vi è capitato di entrare in un bar e ritrovarvi essere servito da una avvenente bella donna. È quello che succede a Le Caffè a Bagnolo Mella in provincia di Brescia, dove con grande successo Laura Maggi, la barista troppo bella, è già una star televisiva. Continuiamo con la musica. Ma questa è una notizia veramente interessante, perché Laura Maggi è contesa da tante televisioni, anche le Iene ne faranno un servizio. Ero distratto un attimino perché stavo leggendo questa notizia, che una notizia veramente raccapricciante, ma soprattutto una bella notizia. Finalmente leggiamo qualcosa di interessante: il fenomeno di Lola Walters, la ginnasta ceca che commuove gli USA. La storia dello sport mondiale è quindi piena di eventi memorabili e di grandi campioni, così scrive questo sito internet. L'impresa che sembra un impossibile fino ad un secolo prima della loro realizzazione. La storia di Lola Walters, come già detto, una ginnasta non vedente, non è quella di una campionessa. Ha solo 13 anni e forse non vincerà mai nulla di importante nella sua carriera sportiva, ma sicuramente una cosa l'ha vinta, quella di partecipare e di fare quello che il proprio cuore desidera. Complimenti a questa bella e brava ginnasta. Questa è CRM Happy Radio, la radio preferita, la musica migliore la trovate su questa radio, sia tramite l'etere che tramite internet. Il nostro sito internet è www.crmhappyradio.it, la radio che potete sia sentire che vedere. Attualmente proponiamo via internet questa magnifica costa di Cefalù, dove il mare è un attimino movimentato, ma solo un attimino. Salutiamo i nostri nottamboli che ci seguono a partire dalle 2 di notte. Sometimes I get a good feeling, yeah. You are the one, love, the picture I behave. My love is yours. Slalom. Flashback. Avvicina la festa delle donne, che è l'8 marzo, e bisogna dire una cosa importante, che per quanto riguarda il rapporto sulle violenze contro le donne, le Nazioni Unite ha dichiarato che non c'è nulla da celebrare, anzi, in tutto il mondo continuano a morire tante donne, una strage silenziosa a cui non si applica ancora la parola fine. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole.